Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo, perché ho le mani per prenderla mentre che rotola tutta amorosa nel viso per te. Se per amore la testa mi vola, la lascio volare da sola, perché le mie braccia si allungano fino a raggiungerla tutta gioiosa nel viso per te. Gira e rigira la testa, mi gira la testa d'amore per te. Capita a tutti di perdere l'equilibrio, anche a chi non è innamorato può girare la testa. Certo che quando gira per amore fa tutto un altro effetto. Ma intanto buongiorno da Nicoletta, eccomi. Puntata dedicata all'equilibrio, una condizione che è il risultato di un lavoro complesso e delicato, come scopriremo nel corso di questa puntata. Attenta, cosa fai? Cado, anzi, stavo per cadere. Venivo a salutarti e ho perso l'equilibrio. Una sensazione strana. Lo so. Alle donne faccio girare la testa. Ma ti sei mai chiesto se fai girare la testa o fai venire il mal di mare? L'importante è non rimanere indifferenti, bambola. Tu mi fai girare, come fossi una bambola. Quando ci gira la testa possiamo dare la colpa al collega, ma potremmo pensare si tratti più banalmente di un calo di zuccheri. Perché no? Voglio chiedere al dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di Mangia che ti passa, PM editore e soprattutto anche uno dei nostri esperti del Daily Lab. Dottor Ongaro, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, mi gira la testa, sarà un calo di zuccheri, vero o falso? Beh no, può essere assolutamente vero. Il calo di zuccheri chiaramente comporta una mancanza di nutrienti al cervello e quindi chiaramente ci può essere un giramento di testa. Ovviamente se c'è un giramento di testa da calo di zuccheri, la cosa importante è intervenire in fretta. In questo caso è uno dei rari casi in cui è raccomandato ovviamente dare dello zucchero, quindi un succo di frutto, anche del vero e proprio zucchero. Attenzione però, perché il giramento di testa da calo di zuccheri è più facile che accada in una nutrizione ricca di zuccheri, quindi questi cali si evitano proprio stabilizzando la glicemia, mangiando non eccessive quantità di zuccheri e soprattutto utilizzando più fibre, più carboidrati integrali, che permettono alla glicemia di rimanere più stabile e quindi di evitare anche i cali verso il basso. Quindi, dottor Ongaro, per un intervento pronto va bene il succo di frutta o anche un cucchiaino di zucchero, ma questo è un segnale che la nostra dieta è povera. Siamo spesso sovralimentati ma malnutriti e dobbiamo cambiare ad esempio la prima colazione? Beh, assolutamente, perché come dico molte volte, più noi insistiamo sulla quantità di zuccheri nell'alimentazione, magari anche credendo proprio di evitare questi cali, in realtà otteniamo un effetto opposto, cioè destabilizziamo la glicemia, avremo sì dei picchi in alto che fanno male per altre cose, ma rischieremo anche sempre questi bruschi cali. Quindi anche una colazione un po' meno zuccherina, un cambiamento anche banale può essere quello di utilizzare dei cereali da colazione integrali invece dei classici cereali raffinati, e di non abbondare ovviamente con cibi come la marmellata eccetera, o il pane integrale invece del pane normale. Sono piccoli cambiamenti che però sul metabolismo hanno un grandissimo effetto proprio nel mantenere anche l'energia più costante nel corso di tutta la giornata. Grazie dottor Ongaro. Grazie. Proveremo. A voi, buona puntata. Ma non è solo colpa di quello che mangiamo, forse. Mi gira la testa perché la mia vita è una giostra. Ho un sacco di cose da fare. In linea con noi abbiamo il professor Claudio Mencacci, psichiatra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. Ci dia una mano anche a lei. Beh, il girare la testa per noi che ci occupiamo di cervello vuol dire anche escludere che non ci sia una condizione di molta ansia, di un'ansia acuta, perché i giramenti di testa e le vertigini fanno parte di quella ricca sintomatologia anche dei disturbi d'ansia e panici. In ogni caso questo può essere ben valutato da un clinico, in questo caso da uno psichiatra, al quale ci si può rivolgere dopo che ovviamente il vestibologo, l'otorino hanno escluso che ci siano tante altre cause, delle cause di natura biologica o circolatoria, e quindi anche lo psichiatra può dare il suo contributo per i giramenti di testa. rimane un consiglio fra tutti, è che comunque più che girare come trottole si tratta di affrontare gli impegni e le richieste che ci vengono fatte un passo alla volta, che come ricordava il Carducci nella Picozza è l'unico modo per arrivare alla vetta. Grazie professor Mencacci, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E se a farci girare la testa fosse un conto in sospeso? Sarà quel maledetto colpo di frusta. Da allora la mia cervicale non è più la stessa. È in linea con noi, abbiamo il dottor Antonio Turetta, fisiatra e agopuntore omeopata. Buongiorno dottor Turetta, spesso si dà la colpa alla cervicale. Sì, spesso si dà la colpa cervicale, anche se occorre valutare bene, perché come diceva il professor Mancazzi, tra l'altro nei disturbi d'ansia spesso si ha anche non solo la vertigine, ma si possono avere tensioni cervicali, per cui la cervicale viene spesso chiamata in causa, però occorre valutare bene. Una delle cose che può avere come conseguenza un colpo di frusta anche dopo un anno è effettivamente un momento di vertigine che non è una franca vertigine come una crisi labirintica che l'otorino sicuramente può escludere. Una delle prove per capire se la cervicale è chiamata in causa è quando si fa la retromarcia, per esempio in macchina, che si ruota non solo la parte del tronco ma si ruota anche molto il capo, può insorgere un momento di vertigine che si vede subito che ritorna nella norma, per cui la persona poi si sente meglio quando riposiziona il capo frontalmente. Oppure un'altra che spesso può capitare quando si va a cercare un libro messo in alto nella libreria e che quindi si iperestende il capo, può succedere di avere un momento vertiginoso che, ripeto, però viene recuperato nel giro di poco tempo, cioè non è una vertigine da crisi labirintica. Dottor Turetta, e qualche minuto al giorno da dedicare alla nostra cervicale? Sì, perché tante volte è spesso dimenticata, dimenticato che sulla cervicale tutte le rotazioni del capo e tutti i nostri movimenti sono la prima cosa che facciamo quando facciamo un movimento anche con l'arto superiore, per cui occorre sempre avere un particolare attenzione, soprattutto al mattino quando ci si alza, per cui fare dei semplici esercizi, ma anche questo alla fine del lavoro, alla sera, quando si sta per andare a dormire, vale la pena di fare delle piccole rotazioni a destra, a sinistra, o anche delle iperestensioni con dolcezza, o uno dei movimenti che spesso si dimenticano, che io chiamo il movimento alla Totò, se vi ricordate come Totò muoveva la testa in avanti e indietro il mento, questo è un ottimo esercizio per riposizionare e dare respiro alle prime due vertebre cervicali, che sono l'atlante e l'epitrofeo, che tante volte vengono chiamate in causa nei colpi di frusta cervicale. Allora ricordatevi Totò. Grazie dottor Turetta per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia. Il mondo gira intorno a noi, o siamo noi che giriamo intorno al mondo? Buongiorno al professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare all'ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno. Buongiorno. Sembra uno scioglilingua, ma la domanda è abbastanza pertinente. Ci aiuta a capire di più di un disturbo diffuso che si chiama vertigine. Professor Guidetti. Sì, è vero. Anzi, diciamo che è proprio le prime due domande fondamentali da porsi davanti a un episodio in cui si ha la sensazione di aver avuto vertigini è: ho visto il mondo girare, le cose intorno a me andavano come una centrifuga, oppure scappavano da una parte? Ecco, questa domanda, se la risposta è sì, identifica al 99% di probabilità che il labirinto, cioè la parte interna dell'orecchio, quella deputata all'equilibrio, ha avuto un problema. Se invece uno si pone una domanda diversa, la seconda domanda, visto che la prima la risposta era negativa, cioè mi sono sentito io come se fossi dentro una centrifuga, oppure mi sono sentito instabile, mi sono sentito insicuro, ecco lì invece probabilmente ci troviamo in una situazione in cui bisogna fare molto più attenzione, esprimere dei giudizi sulla causa, perché sono tantissime le cause o gli organi che possono essere in gioco. E direi di fare particolare attenzione, di misurare come si dice la parola. Spesso noi parliamo di vertigine anche quando non è la testa a girare, ma il pavimento a non stare fermo. Abbiamo quella sensazione di instabilità. Professor Guidetti. Sì, è vero, cioè, spesso la parola vertigine insomma viene usata in grande libertà e crea un po' di confusione. È meglio imparare a distinguere i vari sintomi, perché a ciascuno di loro corrisponde una realtà di patologia diversa in sostanza. È chiaro, noi dovremmo usare la parola vertigine parlando con il nostro medico, anche con gli amici per scambiarci delle opinioni, solo quando vogliamo dire esattamente ho visto tutti intorno le cose che giravano. Altrimenti bisogna spiegare meglio quello che si è provato. È una condizione di disequilibrio. Nell'altra situazione. 800 24 0024, come sempre chiedo anche il vostro aiuto, vorrei una vostra definizione di equilibrio. Potete giocare anche su una similitudine, su una metafora, darci una ricetta, scriveteci al 349 238 6666, chiamateci, e le vostre definizioni, i vostri messaggi sull'equilibrio verranno selezionati, uno di questi verrà scelto e potrà ricevere a casa, in collaborazione con la libreria Rizzoli.it, un libro che secondo me fa il caso nostro, un libro di Giuliana Proietti, si intitola Il benessere, trovare e mantenere il proprio equilibrio psicofisico, ed è quello che cercheremo di fare oggi con i nostri esperti. Professor Guidetti, quindi noi stiamo avvicinandoci al cuore del problema. Il nostro equilibrio dipende da una centralina, e lei l'ha anticipato, che è posta dentro il nostro orecchio, nel cuore. Questa centralina, che è proprio l'organo dell'equilibrio, può incepparsi o andare in tilt. Quali sono le condizioni? Dunque, intanto le condizioni che possono provocare un danno a quella, al nostro sensore dell'equilibrio, che è appunto posto nell'orecchio interno, cosiddetto labirinto, sono tante, vanno da un problemi infiammatori, a problemi vascolari, a problemi degenerativi, a problemi metabolici. L'orecchio è esposto a tante situazioni potenzialmente patologiche, addirittura certi farmaci sono in grado di provocare dei danni. L'importante sarebbe sempre che quando c'è un orecchio, un labirinto che subisce un danno, intanto l'altro sia sano per riuscire a compensarlo. E poi è fondamentale, davanti a qualsiasi vertigine e a qualsiasi danno del labirinto, che il cervello nella sua completezza sia altrettanto sano, perché il cervello è bravo ed è capace di adattarsi e di compensare il danno del labirinto eliminando il sintomo, anche se dovesse persistere un piccolo danno anatomico all'interno del labirinto stesso. Amalia ci chiama da Genova all'800 24 0024. Buongiorno Amalia, benvenuta. Buongiorno e grazie per darmi la possibilità di chiedere un chiarimento, dottore. Ecco, si tratta di questo. Io ho problemi così di equilibrio, no? Nella deambulazione, ma questo da ragazza. Ovvero, tipo, non so, l'asse di equilibrio per me era l'attrezzo impossibile. E poi la cosa curiosa è che anche quando così andavo, camminavo con mia madre o adesso ancora con delle amiche, io invece di camminare dritta, poi puff, vado, sbatto da una parte o dall'altra. E quindi anche camminando, non so, mi cade occasionalmente, se mi volto a destra, sbando a sinistra. E questo non so che cosa posso essere, perché non soffro di vertigini, posso andare a qualunque altezza, affacciarmi da... Non soffro assolutamente di vertigini, ma è questo proprio una... Il pavimento si muove, Amalia, uno sbandamento. Sbandamento, esattamente. E questo me ne rendo conto anche camminando insieme con delle persone che... Certo. Vado a picchiare contro uno con l'altro. Quindi Amalia, è impegnativo fare una passeggiata con lei. Professor Guidetti, Questa è una condizione di disequilibrio? Dovremmo fare una passeggiata insieme per essere sicuri di quello che dico. Questo è un invito, professor Guidetti. Comunque, da quello che sta raccontando, sembra che abbia avuto probabilmente da bambina a questo punto una patologia a carico dei labirinti che rendono difficile per il suo cervello capire qual è la posizione rispetto alla forza di gravità, rispetto alle accelerazioni che subisce, e quindi il programma di mantenimento dell'equilibrio durante i movimenti risulta deficitario. Questa è una situazione non frequentissima, però non è neanche rarissima, insomma, e si supera con adeguati esercizi che devono insegnare al cervello a creare una strategia nuova per superare il problema. Professor Guidetti, ci sono tanti esami a nostra disposizione che possiamo eseguire, tante volte se ne fanno troppi. Chi soffre di vertigini o chi soffre di disequilibrio spesso si trova a girare da un medico all'altro e pensa, noi l'abbiamo passato un po' in rassegna alcuni esperti, prima dalla colpa all'alimentazione, poi magari l'ansia e la pressione, sarà la cervicale, alla fine poi non veramente si perde l'equilibrio nel vero senso della parola, perché non si sa più che cosa fare, il problema persiste. Vogliamo dare, prima di andare a sentire le notizie sui mercati, proprio due indicazioni flash su che cosa fare. Innanzitutto, se il problema si ripete da più tempo, mi sembra che questa sia una buona indicazione. Certo, se è un problema ricorrente, è chiaro che c'è maggiore urgenza di definirne le cause e affrontare il problema anche dal punto di vista terapeutico. Comunque io direi che nell'ordine è domandarsi esattamente ma cosa sto provando, e ripeto, se la sensazione è ho visto il mondo girare, c'è diciamo una certa necessità di orientarsi al più presto verso un esperto di orecchio. E comunque in linea di massima direi che una visita presso un centro di vestibologia dotato di una video nistagmoscopia a infrarosso, cioè di una specie di maschera buia con all'interno due telecamere a infrarosso collegate ad un monitor che permettono di vedere bene il movimento degli occhi, che è il segno più importante. Per fare questo tipo di diagnosi, ecco, cominciare con quello significa in pochi minuti tra anamnesi e esame clinico, che consiste sostanzialmente in una serie di movimenti che vengono fatti al paziente, ecco, la probabilità con questa metodica di arrivare a decidere dov'è la malattia e di che entità è altissima. Siamo insomma a cavallo. Intanto mi stanno arrivando del BSMS delle definizioni di equilibrio, mi piace leggere quella di Giancarlo: equilibrio è non stare in conflitto con ciò che sta fuori da noi. 800 24 00 24, se avete delle domande, se avete delle ricette, se avete una definizione sull'equilibrio, e vi ricordo il nostro Daily Lab, l'appuntamento quotidiano con gli esperti di Essere Benessere, che ci insegnano a prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. Essere Benessere. Penso che la chiave di molte cose sia l'equilibrio. Che sia l'equilibrio del potere. Equilibrio in amore. Per alcuni di noi sembra molto difficile da raggiungere. Troppo difficile da conquistare. Ma la cosa più importante è non smettere mai di tentare. E siamo tornati insieme, stiamo lavorando sull'equilibrio, è una condizione a cui tendiamo e che rimanda ad un'idea di benessere e di armonia. In linea con noi abbiamo la dottoressa Tiziana D'Onofrio, che è direttore scientifico del Centro Studi per le Medicine Naturali IDO di Teramo. Dottoressa, bentornata. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottoressa, la parola equilibrio per la medicina cinese è una parola chiave, perché la salute dipende dall'equilibrio. Equilibrio di due forze, yin e yang. Esatto. Perfetto. E la malattia dipende dalla mancanza di questo equilibrio. Quindi se noi idealmente riuscissimo a mantenere l'equilibrio tra lo yin, le energie scure, fredde, materiali, in pratica che prendiamo dalla terra, tra virgolette, e le mantenessimo in equilibrio con le energie yang, invece che sono quelle solari, luminose, calde, che tra virgolette ci provengono dal cielo, parliamo di simboli anche, un linguaggio simbolico e anche esoterico se vogliamo, ma anche pratico, ebbene l'equilibrio tra queste due energie fa in modo che la malattia non è una cosa che non ci apparterà mai e la salute e il benessere diventano una costante a cui possiamo davvero tendere e aspirare. Un consiglio che arriva dalla saggezza millenaria della medicina cinese per mantenere queste due forze in equilibrio, visualizziamo una bilancia, dottoressa D'Onofrio. Bene, sì. Molto semplice, innanzitutto conformarci, questo lo dicono i grandi testi sacri della medicina cinese classica come il Nei Jing Souen, sono testi che hanno scritti oltre 4.000 anni fa, ebbene conformarci anche a quelle che sono le regole della natura, dormire la notte, di giorno lavorare, essere in attività, cercare il più possibile questa sorta di proprio di essere conformi a quelle che sono le stagioni e i ritmi del giorno e della notte, cosa che purtroppo spesso non facciamo, lavoriamo spesso la notte, ci divertiamo spesso la notte stando in piedi e togliendo ore al riposo e al nutrimento delle energie in. Quindi lei mi sta dicendo che l'equilibrio si raggiunge anche rispettando i ritmi. Certo, i ritmi e anche i cibi. E dovremmo cercare il più possibile, ma questo lo dice anche la nutrizione occidentale moderna, per esempio mangiare i cibi di stagione, perché i cibi di stagione conducono con loro le giuste energie, quindi in estate mangeremo i cibi propri dell'estate, le zucchine, i cocomeri, la frutta di stagione, d'inverno mangeremo frutta e verdura di stagione invernale e anche questo ci aiuterà a mantenere questo equilibrio dello yin e dello yang. Dottoressa D'Onofrio, per chi in questo momento sente di essere un po' fuori equilibrio, c'è un esercizio, un consiglio che lei può suggerirci? Sì. Allora, una tecnica molto molto semplice. Abbiamo dei punti sull'orecchio che si chiamano riflessologici, perché anche se si trovano sull'orecchio hanno un riflesso su tutto il nostro organismo e in modo particolare sul nostro cervello. Se noi afferriamo tra il pollice e l'indice la zona del lobo dell'orecchio che si trova un po' al di sotto del punto dove normalmente indossiamo gli orecchini, sì. Facciamo un piccolo massaggio prolungato di almeno 1-2 minuti, riusciamo a liberare endorfine, quelle sostanze che hanno un effetto antistress, antiansia, antitensione, tra virgolette, non è appropriato il nome, il cosiddetto effetto Lexotan, ormai il Lexotan è entrato un po' nel gergo di quando vogliamo pensare a qualcosa che dia calma e serenità. Quindi con questo esercizio rimettiamo un po' a pari i piatti della bilancia? Almeno, se non altro, cominciamo un po' a riflettere, a essere più predisposti a vedere un po' di resettare la nostra esistenza, non solo in base ai nostri impegni di lavoro, ai nostri ritmi di vita, ma anche osservando un po' le stagioni che cambiano e che ci suggeriscono qualcosa. Grazie alla dottoressa D'Onofrio per essere stata con noi. Buona giornata e io vado a Rimini perché c'è Paola che ci aspetta. Paola, buongiorno. Buongiorno. Eccomi, siamo pronti. Allora, io le volevo chiedere una cosa che mi succede dal mese di giugno più o meno, che io passeggio e purtroppo mi ritrovo o completamente sulla destra o completamente sulla sinistra. Dovrebbe andare con Amalia, Paola, ha telefonato prima Amalia, aveva il suo stesso problema, che così una tira l'altra. No. Ma e già potremmo creare, no, una coppia di amiche per delle passeggiate un po' più dritte, ma professor Guidetti, è un problema più femminile che maschile questa perdita dell'equilibrio, questa tendenza a non riuscire a camminare dritti? Statisticamente parlando sì. Non è un caso che siano due ascoltatrici che intervengono con lo stesso problema. Penso proprio che non sia un caso, no? In questi casi come possiamo orientarci per ritrovare l'equilibrio? Perché è una cosa abbastanza fastidiosa. Intanto è un disturbo che rende la vita difficile, perché sì. Si perde il gusto delle passeggiate, ma non solo. si creano dei problemi sul lavoro, una paura di non poter affrontare certe situazioni, insomma, è umanamente chiaro che incide molto sul benessere in generale. E quindi è chiaro che bisogna trovare una soluzione. Come dicevo precedentemente, la prima cosa da fare è escludere che questo sia legato a una patologia cronica a carico del labirinto o di altre strutture cerebrali. Se così fosse, non stiamo parlando di malattie in genere gravissime, ma magari di piccoli disturbi della circolazione cerebrale, della circolazione dell'orecchio. Raramente questo rispecchia patologie particolarmente gravi, insomma non stiamo parlando di tumori o cose certo. del genere, se non in casi molto rari. Una volta che si è fatto il quadro della situazione, se le medicine non bastano, sì. e allora bisogna prendere per buono il concetto di aver voglia di riabilitarsi, cioè a questo punto tutto quello che è stato detto prima, a cominciare da quello che ha detto il professor Mencacci, è giusto. Per esempio, citando Carducci, il professor Mencacci prima diceva che bisogna camminare un passo alla volta per arrivare alla cima. Ecco, quando si ha invece una vertigine bisogna cominciare un passo alla volta per scendere anche dalla vetta, dal culmine della normalità, della malattia, verso la normalità, cioè ci vuole un po' di pazienza, non farsi prendere dal panico, aiutarsi magari anche con qualche supporto psicologico o tradizionale, o come diceva la collega prima, anche con le metodiche di rilassamento, di produzione delle endorfine, eccetera, perché un cervello sereno compensa meglio i danni subiti dal labirinto. Un cervello ansioso, impanicato, preoccupato, fa molta più fatica. È come se dovessimo imparare una poesia nuova, no? Se siamo sotto ansia, sotto stress, sappiamo che non ci riusciamo. Quindi diventa fondamentale, quando c'è una malattia che evolve cronicamente, riuscire ad affrontarla con un po' di tranquillità, con l'aiuto di un buono specialista, e se tutto questo non è sufficiente poi si fa la riabilitazione, cioè si fanno degli esercizi appositi in strutture appositamente create con gli strumenti adeguati per poter imparare nuovamente. Certo. Abbiamo Antonio che ci chiama da Modena. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Parlo? Parli. Il problema è questo mio: da alcuni anni io ho questi problemi di vertigini. Poi, fra l'altro, credo anni fa mi visitò anche il professor Guidetti. E recentemente, quindi ad aprile, ho avuto un episodio un po' forte. Vertigine nel senso che giro io, non gira il mondo, insomma. E ho fatto visite, ho fatto esami, ho fatto risonanza magnetica. Tutto a posto, ma? Tutto a posto, sì, tutto a posto. Alla fine viene fuori, c'è un problema di labirintite che probabilmente c'è stato, poi mi ha detto qui c'è un problema di microcircolo. Fermiamoci a questa parola, microcircolo. Essere e benessere. Professor Guidetti, che cos'è questo microcircolo? Che cosa succede nel labirinto? Dunque, microcircolo praticamente si intende sostanzialmente la circolazione dei capillari, tanto per usare un termine che la gente capisca meglio, no? Cioè i vasellini più piccoli del sì. corpo umano. È chiaro che negli organi piccoli piccoli, come il labirinto, ci stanno i vasi piccoli piccoli. E se ci sono delle patologie nei vasi piccoli piccoli, è più facile chiaramente che si chiudano, creando una situazione di non irrorazione adeguata delle cellule che dovrebbero ricevere il sangue. In questi casi di solito si tratta di patologie, diciamo croniche, come possa essere il diabete, la pressione alta, il colesterolo alto, di solito sono persone che hanno queste problematiche qui, finiscono, no, per avere un danno stabilizzato nell'organo che doveva essere irrorato adeguatamente. Il microcircolo richiede quindi una terapia cronica, in sostanza, per cercare di migliorarlo, mantenere quella portata del sangue ideale per ossigenare bene i tessuti. Certo. Sì, c'è da dire che ecco, qualche volta magari i medici tendono un po' a esagerare quando non sanno chi dare la colpa e danno al microcircolo. Questo è sempre è così. Un'altra colpa che si dà spesso ai giramenti di testa è la pressione. La pressione o bassa o troppo bassa o troppo alta, vero o falso? No, è vero, si dà spesso la colpa a questo, in qualche volta è vero, qualche volta la pressione alta può, può dare come campanello d'allarme, avere come campanello d'allarme la vertigine, nel senso, questo senso di obnubilamento, di testa leggera o testa pesante. Sì. La pressione bassa, lo sanno tutti quelli che ne soffrono, di solito è accompagnata da quella sensazione di stordimento quando ti alzi o fai un movimento rapido, certo, improvviso. Ecco. Sì, in questi casi non sono vere vertigini, però ecco, sono dei campanelli d'allarme che qualcosa non va nella regolazione dei vasi, certo. Intanto voglio leggervi le definizioni che mi state mandando al 349-238-6666, ne sentiremo anche qualcuna in diretta. L'equilibrio è la facoltà percettiva di disegnare con la massima approssimazione lo spazio che circonda la nostra imperfetta visione relativistica. Equilibrio è mantenere la giusta distanza, e noi andiamo a Mauro che ci chiama da Biella. Buongiorno Mauro, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Io volevo solo portare una mia esperienza. Sì. Io da giovane soffrivo molto di quello che io ho sempre ritenuto questi attacchi appunto di paura del vuoto, dell'alto. Sì. Nel senso che quando ero su una scala o su un posto dove vedevo un buco, io mi irrigidivo molto, dovevo essere attaccato a qualcosa perché mi prendeva proprio questa paura. Sì. E mi sono accorto che mi è passata grazie alla frequentazione dello yoga. Cioè, nel percorso dello yoga, io questo è il 12° anno che lo che faccio, lo fa? Ho aumentato molto l'autostima e la capacità di vivere la presenza. E ho proprio notato che questa praticamente mi è, se non sparita, ma attenuata moltissimo. Una cosa molto, io da giovane non riuscivo a mettermi le calze stando in piedi su una gamba sola. Sì. Perché continuavo a traballare e cadere. Adesso riesco a farlo benissimo. E quindi per me è stata un'esperienza di questo genere. È stato non un so tocca sana. Una relazione. Ma guardi che infatti il professor Guidetti suggeriva un affiancamento a yoga, treni in autogeno. Professor Guidetti, fa bene al... Perché in questo caso il signore che sta chiamando, Mauro, ha fatto un po' di confusione fra le due malattie, no? Tra l'acrofobia, cioè la paura dell'altezza, che siccome si chiama fobia fa riferimento a una componente emozionale, no? Dove quindi è importante del rilassarsi, eccetera. Ma ha detto un'altra cosa prima, ha parlato di instabilità. Sì. E allora è probabilmente uno di quel 50% dei casi di acrofobia che invece di nascere semplicemente da una paura immotivata apparentemente dell'altezza, nasce da una vecchia lesione vestibolare, cioè nel labirinto, che ha avuto un'evoluzione inizialmente con quei sensi di instabilità che non riusciva neanche a allacciarsi le scarpe, stare su una gamba sola, eccetera, poi è evoluta in senso emozionale dando appunto questa specie di fobia per l'altezza. E in questo caso, come dicevamo prima, un cervello sereno sistema entrambi i problemi. Leda, dalla provincia di Brescia, buongiorno Leda. Buongiorno. Sì, noi siamo pronti, noi pendiamo dalle sue labbra. Niente, volevo provare a dare una mia definizione di equilibrio, quindi riuscire a camminare sul nostro personale filo teso tra il passato, il presente e il futuro. Mi piace molto la definizione di Leda, sarà selezionata insieme a quelle che stanno arrivando via SMS e al nostro centralino, e sulla nostra pagina Facebook le riporteremo tutte con la segnalazione di quella che riceverà a casa il libro. E intanto molti di voi mi chiedono: il mio, perdo l'equilibrio per lo stress, ho tante cose da fare, sono affannata. Abbiamo col professor Guidetti sottolineato sicuramente la componente psicologica. La scienza sta studiando lo stress non solo dal punto di vista psicologico, ma proprio come risultato di un disordine fisiologico e biologico. Ci sarà un bel convegno a Orvieto, un convegno internazionale, si svolgerà alla fine di ottobre, organizzato dalla società di psiconeuroendocrinoimmunologia, una parola che sembra uno scioglilingua, ma che è una scienza proprio che studia tutte le componenti psicologiche, emotive, endocrinologiche che si occupano di stress. In linea con noi abbiamo il presidente, il professor David Lazzari, autore tra l'altro della Bilancia dello Stress. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Che nomi difficili per parlare di stress, ed è difficile tenerlo a bada e mantenerci in equilibrio. Ma la scienza adesso ci dà una mano. Quali sono le novità? Allora, i nomi sono difficili, ma insomma quest'anno è il 75° anniversario della, diciamo, della scoperta dello stress, che viene pubblicata proprio 75 anni fa da Hans Schelling. E in questi 75 anni la ricerca ha fatto molto, tant'è che, come diceva lei, a Orvieto, un congresso internazionale, ci saranno studiosi di tutte le discipline, proprio perché lo stress è un concetto effettivamente che può essere visto da tanti punti di vista. Lei che ne sa tanti, ci dia una ricetta veloce in 30 secondi. La ricetta è questo, che lo stress è un equilibrio personale, poter trovare la bilancia richieste risorse individuale è fondamentale, perché il giusto stress è fondamentale per mantenerci in equilibrio. L'eccesso di stress è il fattore principale, ormai lo sappiamo, per allontanarci dall'equilibrio, e siccome equilibrio è salute, l'allontanamento dell'equilibrio è malattia. Professor Lazzari, grazie per essere stato con noi. Naturalmente riprenderemo il tema dello stress, andremo proprio a così pescare alcune degli interventi più interessanti del convegno. Saluto il professor Guidetti che ci ha accompagnato in equilibrio per tutta questa puntata. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon equilibrio. Essere e benessere.